Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Che cosa succede se un gruppo musicale di culto apre un negozio che vende non solo il merchandising discografico, ma anche capi di abbigliamento di brand affini al proprio pubblico? Succede che fa scuola, scopriremo come tra pochissimo. Non ci sono solo le sfilate per capire la moda, anche dalle fiere, dai saloni del tessile arrivano molti segnali in anticipo sulle tendenze. Sulla scia degli ultimi appuntamenti di Milano e Parigi abbiamo incontrato un nome storico e ci siamo fatti raccontare un po' di segreti del settore. Focus sui trend dedicato invece ai nuovi prodotti e servizi che guardano in alto, dai droni per le consegne a domicilio alle casse acustiche fluttuanti. Sound inconfondibile non poteva che venire da un gruppo cult come i Daft Punk, l'idea che rivoluziona il tradizionale merchandising discografico, avvicinandolo alle formule del fashion retail. Un negozio, per ora solo in versione temporary, aperto l'11 e chiuso il 19 febbraio a Los Angeles, in cui era possibile trovare non solo prodotti legati alla famosa band, ma anche prodotti di brand della moda, soprattutto streetwear, quindi affini al proprio pubblico. E il negozio è stato promosso attraverso una locandina simile a quelle dei propri concerti. Un'idea che non mi stupisce, ci ha detto Gianni Sibilla di Rock Hall, che così ci spiega il perché. Per due motivi. Il primo motivo è che non è il primissimo caso, è il primo con queste modalità, ma quando Frank Ocean qualche mese fa lanciò il suo disco Blonde, fece dei temporary shop dove questo disco veniva distribuito assieme ad una rivista. In quel caso la necessità era data dalla particolarità della distribuzione, perché quel disco venne fatto tramite Apple Music e distribuito in forma fisica senza un'etichetta discografica vera e propria, quindi serviva come strumento di marketing e strumento di disponibilità dell'oggetto fisico. Il secondo motivo è esattamente questo: i Daft Punk sono dei geni del marketing, quindi fare un'operazione di questo genere, al di là della monetizzazione che può portare sui singoli prodotti, è sicuramente qualcosa che fa parlare, quindi contribuisce a tenere vivo il loro marchio, perché loro è effettivamente un marchio. Strategica anche la scelta di non offrire in vendita solo il merchandising della band, ma anche altri prodotti. Questa mi sembra la novità, l'unica cosa veramente nuova, perché solitamente quando si fanno queste operazioni si fanno sul proprio brand. In questo caso qua ci sono delle operazioni di co-marketing e di co-branding, per cui leggevo che all'interno del temporary shop sono stati venduti anche dei prodotti della Keyway o di marche di questo genere, che in qualche maniera sono più o meno affini. D'altra parte loro hanno fatto anche delle operazioni di sponsorizzazione, che ormai nella musica sono abbastanza consuete, dopo un periodo in cui invece associarsi ad un marchio commerciale era una cosa un po' complicata per un artista. Quanto pesa il merchandising attualmente nel mondo musicale e quanto vale la tendenza, insomma, a spostarsi dalla musica ad altri prodotti correlati? Molto, ovviamente, perché siamo in una fase in cui la monetizzazione non è più centrata sul prodotto discografico come 15-20 anni fa. Oggi, ormai non da poco tempo, l'artista deve trovare diverse forme di monetizzazione, quindi il proprio brand deve essere trasformato in soldi, ma attraverso i concerti, non solo, ma attraverso sponsorizzazioni. Quindi il merchandising in quest'ottica è diventato sempre più importante, tanto più che ormai anche qua non da poco tempo viene inserito nei contratti discografici. In questo caso poi l'immagine e la figura dei Daft Punk è talmente forte che il merchandising diventa ancora più centrale. Quindi è facile aspettarsi che un test del genere con questa formula possa fare scuola? Sì, ovviamente è una cosa replicabile soltanto quando c'è un brand così forte, non si può fare per l'artista esordiente, lo possono fare soltanto artisti che hanno un'immagine e un apparato visivo assolutamente riconoscibile, come i Daft Punk, che noi non li vediamo, ma li vediamo sostanzialmente, quindi ci deve essere una intenzionalità di fondo verso quel brand davvero molto forte, e questo non è appannaggio di tutti gli artisti, evidentemente. Cambiamo argomento, parliamo di tessuti, l'anello numero uno della filiera della moda, in grado di intercettare, anticipare le tendenze del mercato, un mondo molto più vicino al consumatore di quanto si pensi. Per farlo abbiamo scelto un'eccellenza tutta italiana, 141 anni di storia, una quota di export pari al 70% del fatturato in oltre 80 paesi nel mondo. Albini è il maggior produttore europeo di tessuti per camicia. Il presidente del gruppo Silvio Albini. Soprattutto assolutamente nell'uomo una prima tendenza è che a vari livelli, però i nostri compratori e quindi credo anche il consumatore finale aspira a una migliore qualità intrinseca del prodotto. In una camicia, per esempio, il tessuto, la qualità del tessuto fa una grandissima differenza se dopo un po' di lavaggi la camicia regge o non regge. Ecco, io vedo che i compratori e i consumatori a tutto questo sono molto attenti, quindi vedo un po' dappertutto clienti che chiedono qualità migliori. Poi conta ovviamente anche il rapporto qualità-prezzo, non è che accettino tutti i prezzi, ma oggi uno dei fattori chiave è proprio questo rapporto qualità-prezzo, dove la qualità è fondamentale. Nell'uomo tutto questo è ancora più accentuato, c'è questo grande domanda, quasi boom direi, delle camicie su misura. E qui proprio la qualità del tessuto deve essere eccellente. Un'altra tendenza che ho notato oramai da qualche stagione è che in questa fase di transizione c'è tanta voglia di innovazione anche di prodotto. Gli armadi sono abbastanza pieni, i compratori e i consumatori sono in gran ricerca di innovazione. Innovazione può voler dire molte cose, da quella puramente estetica di disegni, colori, armature dei tessuti, a quella di performance migliori, per esempio nel lavaggio della camicia, nello stirarla più facilmente, il fatto che non si stropicci. Ecco, tutto questo è un altro grande tema. Per un'azienda come la nostra, che controlla tutta la filiera dalla coltivazione, almeno di una parte della materia prima, il più bel cotone al mondo, poi la filatura, poi la tintoria dei filati, poi la tessitura vera e propria, poi la nobilitazione, il finissaggio, noi vediamo che innovazione si può fare in ciascuno di questi step. Quale spazio trova oggi nella moda, nell'armadio, la camicia? Fasi alterne nell'abbigliamento maschile è stata insidiata dalla maglieria. Voi ora puntate anche su una nuova collezione dedicata alla donna per rilanciare anche il ruolo di questo capo nell'abbigliamento femminile. Io è più di 30 anni che vivo il mondo della camiceria, dalla parte della camiceria, e ho visto più volte dei trend, qualche volta a favore della camicia, qualche volta a favore della maglia. Adesso devo dire la concorrenza della maglieria è forte. Ciò detto, proprio noi dobbiamo ripensare la camicia in funzione dei due elementi che dicevo prima, qualità e innovazione in senso molto molto ampio. Un buon segnale ci viene, come lei diceva, dalla donna. Da quel mondo c'è invece tanta voglia appunto di camicia e poi coi tessuti camicia si fanno anche altre cose nel mondo della donna. Si possono fare abiti, si possono fare pantalone, quindi ci si può sbizzarrire moltissimo. Il vostro cotonificio ha 141 anni di storia. Lei rappresenta la quinta generazione. Come sono cambiati i filati? Ci sono alcune cose assolutamente costanti. Il bel cotone egiziano è un fil rouge, credo che i miei bisnonni, mio bisnonno già usava, da un lato. Quindi ci sono degli elementi del bel cotone che proprio non sono cambiati più di tanto. D'altra parte, la tecnologia ha permesso a questo bel cotone, soprattutto egiziano ma non solo, di fibra lunga, di arrivare a titoli e a perfezioni di filatura veramente impensabili anche solo pochi anni fa. C'è stata una grande innovazione, quella dei filatoi compact, oramai da 10-15 anni. Questi hanno permesso proprio filati molto più puliti, più resistenti e più fini usando questi bei cotoni. Quindi ci sono elementi di sicuro di continuità, ma anche dei momenti di rottura tecnologica che hanno dato grande impulso al nostro settore. Ecco. Io so che voi avete un archivio storico che è tuttora fonte di ispirazione. Se le dico di scegliere da lì un tessuto, uno su tutti. Il nostro archivio storico è molto bello, ha 700 volumi almeno dalla metà dell'Ottocento ad oggi. Cosa sceglierei? Ma ci sono dei tessuti degli anni 30, dei popelin molto fini, che mi piacciono molto e che esprimono una raffinatezza non sparata, non discreta, ecco, corrisponde alla mia personalità. Popelin, quindi un tessuto liscio, una bella riga, ma con dimensioni e proporzioni raffinate e contenute. Dalla celebre piattaforma per cenare sospesi a 50 metri d'altezza ai droni per le consegne a domicilio, passando per le action cam, volanti e gli oggetti che sfruttano la levitazione. Restate con noi perché nel focus sui trend parliamo di consumi fluttuanti tra pochissimo, subito dopo la pausa. Essere e avere. Tu, tra un mondo con le piramidi e un mondo senza piramidi, quale dei due preferisci? Le piramidi. Quello di volersi librare nel cielo è il sogno dell'umanità, ma è anche un sogno maledetto. Gli aeroplani portano il peso del destino di divenire strumenti di massacro e distruzione. Sì. Ciò nonostante, io ho scelto il mondo con le piramidi. E tu quale scegli tra i due? Io penso di voler creare splendidi aeroplani. Focus sui trend. Ebbene sì, è il cielo, il nuovo spazio di conquista per prodotti e servizi. Oggi parliamo di consumi fluttuanti. Ce li facciamo raccontare da Lucia Kromecka di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo dal caso che ha fatto scuola. È stato lanciato più di 10 anni fa, ma continua ad avere successo in tutto il mondo. Parliamo di Dinner in the Sky. La cena in cielo è una manifestazione gastronomica itinerante che ha raccolto successi nel mondo, come hai detto anche tu, da diversi anni, proprio per l'eccezionalità del concept. È stato ideato nel Nord Europa e si tratta di un evento che dà la possibilità di gustare una cena veramente particolare, sospesi tra le nuvole a 50 metri dal suolo. Su una piattaforma sospesa nell'aria è possibile avere un tavolo con 22 posti, ognuno con cinture di sicurezza ovviamente, e la possibilità di rotazione a 180 gradi, perché così può offrire una vista impagabile sulle città in cui si organizza l'evento. Lo chef di turno, per esempio Massimo Bottura, era il protagonista dell'evento organizzato in Messico nei primi di gennaio, nella spettacolarissima zona archeologica di Teotihuacan, garantisce un'esperienza indimenticabile. inspiegabile, che combina l'adrenalina e la gastronomia. Un altro caso di cui si è parlato molto, non si capisce mai quanto vicino sia alla sua concreta realizzazione, la consegna dei pacchi di Amazon con i droni. Ecco, Amazon con il suo servizio Prime Air ha dato ufficialmente inizio a questa fase pilota delle consegne tramite droni. E la prima consegna del servizio si è svolta lo scorso 7 dicembre a Cambridge, in Inghilterra. La spedizione conteneva semplicemente un Amazon Fire TV e un pacco di popcorn e ha richiesto però un tempo complessivo solo di 13 minuti, cioè dal quick di acquisto sul sito Amazon fino alla ricezione della merce alle coordinate del cliente. Anche altri grandi players come UPS stanno al momento sperimentando le varie modalità di consegna tramite droni. E i droni ovviamente sono l'oggetto clou di questa tendenza, sempre più sfruttati a livello commerciale. Li abbiamo visti anche nella serata del Super Bowl, dove di volante, Lucia, c'era anche Lady Gaga. Sì, è proprio vero. Ecco, cioè, spettacolo, droni uguale spettacolo, anche perché per motivi di sicurezza ancora non si può deliberare la circolazione di questi volanti. Ha fatto molto parlare la coreografia dei 300 droni durante lo spettacolo di Lady Gaga al Super Bowl, l'evento sportivo più importante visto d'America. Durante la halftime, dove si vanno tutte le pubblicità del mondo e anche tutti i spettacoli più belli, sull'Energy Stadium di Houston, la Intel ha reso protagonisti dello show questi droni che si chiamano Intel Shooting Stars, che illuminandosi e volteggiando nei cieli di Houston hanno stupito veramente il pubblico, creando molteplici formazioni tra cui anche la bandiera degli Stati Uniti. E il segreto del successo di questa iniziativa, cioè organizzata dalla multinazionale californiana, è stato proprio nel software utilizzato. I percorsi dei droni sono stati pre-programmati per effettuare la coreografia con estrema precisione e garantire la sicurezza del pubblico. Il prossimo oggetto è veramente straordinario, lo ammetto, è il mio preferito, una custodia che trasforma il nostro smartphone in una sorta di action camera volante. Parliamo di un drone per fare i selfie. Questo drone, dell'ingegnoso nome Selfly, può essere utilizzato per scattare selfie e per effettuare delle brevi riprese dall'alto, perché ha una camera da 8 megapixel e vanta una ottima stabilità in hovering. Ma la vera innovazione sono le sue dimensioni ridotte, cioè è un quadricottero leggerissimo che si piega per essere inserito in una cover simile a quella di un smartphone, poi facile da infilare in tasca. Il Selfly si integra grazie a un'apposita applicazione con il proprio smartphone e che permette agli utenti di controllare il dispositivo. Quindi spieghiamolo, a volare in pratica è questo mini drone, questa custodia, e lo smartphone risulta poi essere il controller, è così? È proprio così, per farsi dei bei selfie dall'alto, spettacolarissimi. Al di là della funzione specifica, Lucia, la levitazione, diciamo così, affascina il design. Il prossimo prodotto lo testimonia, parliamo in questo caso di casse acustiche, casse stereo. Sì, cioè un oggetto fluttuante particolare. Il progetto è stato sviluppato qualche anno fa da Richard Clarkson e riguardava proprio un speaker Bluetooth e anche lampada integrati, somiglianti a una piccola nuvola che evoca un temporale lampeggiando, cioè aveva questo effetto. Questa nuvola fluttuante però, che riproduceva la musica e che ebbe un enorme successo mediatico in tutti i giornali, tutti i blogs, aveva bisogno di essere sostenuta da un filo, rovinando un po' questo effetto fluttuante. Qualche mese fa ho visto che è stata lanciata la sua versione evoluta, risultato della collaborazione del suo inventore con Crealev, una azienda molto particolare, specializzata nell'applicazione dell'innovativa tecnologia a levitazione, che l'abbiamo visto in tanti oggetti. Ecco, la nuovissima nuvola galleggiante, grazie a dei componenti magnetici integrati nell'oggetto, ora fluttua a 5 cm sopra una base ovale. Le luci a LED sono reattive al suono e completano l'effetto fluttuante quanto si accende la musica, come prima. Come sempre, delle immagini sulla nostra pagina Facebook, sono veramente affascinanti. Abbiamo spazio per un ultimo caso. Questo è il mio caso preferito. Proprio la settimana scorsa BMW e Lego hanno presentato presso il Lego World di Copenhagen il BMW Hoveride Design Concept. Di che cosa si tratta? Non certo di un giocattolo, ma di una moto che vola, un concept rivoluzionario che unisce lo stile del marchio tedesco al futuro immaginario delle moto volanti, progettato a partire dallo studio del kit della famosa R1200 GS Adventure, un modellino di moto della serie Technic Lego. Il concept risponde direttamente alla domanda: perché invece che riprodurre la realtà con il Lego, non riprodurre il Lego con la realtà? Alexander Buchan, il capo della BMW Motorrad Vehicle Design, ha dichiarato: è stata una grande idea e una bella sfida quella di sviluppare un concept di una moto volante a partire dai pezzi Lego, mantenendo il DNA tipico delle moto BMW, ma riprendendo anche le caratteristiche stilistiche di Lego Technic. E io vorrei aggiungere una citazione di Albert Einstein: la forza dell'immaginazione è la forza di costruire il proprio futuro e di far scorrere il tempo. Beh, questa sera ci hai fatto proprio volare, Lucia Cromesca, grazie, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. I consumautori, ormai lo sappiamo, siamo tutti noi sempre più protagonisti, informati, responsabili nelle nostre scelte di consumo. Sono le riflessioni che accompagnano il nostro dialogo con il sociologo Francesco Morace. Ben trovato, Francesco. Buonasera Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Il tema che hai scelto per questa puntata? Questa puntata partiamo da un film, ancora una volta, che è Patterson, che è un piccolo film ma molto interessante perché mette in evidenza la forza della poetica, la definirei la poetica del quotidiano. Il protagonista, che poi in realtà fa tutt'altro, ha questa passione di scrivere pensieri, piccole poesie, e devo dire che questo è un fenomeno che sta proponendosi a livello mondiale anche in termini, diciamo, di nuova letteratura. Insomma, la poesia, che era stata dimenticata per molto tempo, torna nelle hit e forse è legata anche a un bisogno che abbiamo definire in poche parole questo desiderio anche di essere romantici e di guardare alla realtà in modo diverso. E poi questa contaminazione di registri, possiamo dire così, che è un po' uno dei segni del nostro tempo. Sì, tra l'altro ricordo anche in Italia una delle fiction, insomma, dei serial più seguiti, che è Un passo dal cielo, che si chiude sempre con una piccola frase poetica, una citazione, ed è una cosa che francamente qualche tempo fa sarebbe stata impensabile. E anche nel marketing, negli stessi Stati Uniti, ad esempio Chipotle, che è una catena Tex-Mex molto importante, ha raccolto qualche tempo fa l'invito di un grande scrittore, che è Safran Foer, di usare i loro bicchieri e il loro packaging, i loro bag, proponendo delle frasi, anche quelle tratte da grandi opere letterarie. Quindi una forza rinnovata per la scrittura, per la poesia proprio. Sì, scrittura, lettura. E appunto questa idea che la quotidianità non è schiacciata solo sulla dimensione più economica e della soddisfazione, diciamo, materiale, ma può aprire le ali e anche volare con la fantasia. E sul volo dunque chiudiamo, così come l'avevamo aperta, anche questa seconda parte. Grazie a Francesco Morace, grazie a Paolo Corleone in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Come sempre, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.